Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro: «Che cercate?» Gli dissero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove stai?» «Venite e vedrete», disse loro. Andarono e videro dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simone Pietro, era uno di quei due che avevano ascoltato Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli trova anzitutto suo fratello Simone e gli dice: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto significa Cristo. Lo condusse a Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che si traduce Pietro. L'indomani decise di partire per la Galilea e trova Filippo. Gesù gli dice: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trova Natanaele e gli dice: «Quello di cui hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, noi l'abbiamo trovato, Gesù, figlio di Giuseppe da Nazaret». «Da Nazaret», gli disse Natanaele, «può venire qualcosa di buono?» Gli dice Filippo: «Vieni e vedi». Gesù vide Natanaele venirgli incontro e dice di lui: «Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità». Gli dice Natanaele: «Donde mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico». Gli rispose Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Vedrai cose ben più grandi». Poi soggiunse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul Figlio dell'uomo». Tre giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice: «Non hanno più vino». Le dice Gesù: «Che vuoi da me, o donna? Non è ancora venuta la mia ora». Sua madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». C'erano là sei giare di pietra per le abluzioni dei giudei, capaci da 2 a 3 metrete ciascuna. Dice loro Gesù: «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro: «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, egli non sapeva d'onde veniva, mentre lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiama lo sposo e gli dice: «Tutti presentano dapprima il vino buono e poi, quando si è brilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là non molti giorni. Era prossima la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe, e i cambiavalute seduti. E fattasi una frusta di funicelle, scacciò tutti dal Tempio, anche le pecore e i buoi. Disseminò il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe: «Portate via questa roba di qui, e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi divorerà». Gli risposero allora i giudei e gli domandarono: «Quale segno ci mostri per agire così?» Gesù replicò loro: «Distruggete questo santuario e in 3 giorni lo farò risorgere». Dissero allora i giudei: «In 46 anni fu costruito questo santuario e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Egli però parlava del santuario del suo corpo. Perciò, quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Mentre egli si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sull'uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non è nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli dice Nicodemo: «Come può un uomo nascere se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, se uno non è nato dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è carne, e il nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che ti abbia detto: voi dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, senti il suo sibilo, ma non sai d'onde viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». «Come possono avvenire questi fatti?» riprese Nicodemo. Rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se non credete quando vi ho detto cose terrene, come crederete qualora vi dica cose celesti? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è in cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio suo unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non viene condannato. Chi non crede in lui è già condannato, perché non ha creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce venne nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano smascherate. Colui invece che fa la verità viene alla luce perché si riveli che le sue opere sono operate in Dio. In seguito Gesù e i suoi discepoli vennero nel territorio della Giudea e lì si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Ennon, vicino a Salim, perché là le acque erano abbondanti e la gente accorreva e si faceva battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Sorse allora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo a proposito della purificazione. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te al di là del Giordano, cui tu hai reso testimonianza, ecco che battezza e tutti vanno da lui». Rispose Giovanni: «Non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, ora è perfetta. Egli deve crescere, io invece diminuire. Colui che viene dall'alto è sopra di tutti. Colui che è dalla terra appartiene alla terra e parla da uomo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra di tutti. Egli testimonia ciò che ha visto e udito, ma nessuno accoglie la sua testimonianza. Colui che accoglie la sua testimonianza ratifica che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio, poiché dà lo Spirito senza misura.

e circolavano molte voci a suo riguardo in mezzo alle folle. Alcuni dicevano: «È buono», altri dicevano: «No, anzi, inganna la gente». Nessuno però parlava pubblicamente di lui, per paura dei giudei. Quando la festa fu a metà, Gesù salì al Tempio e insegnava. I giudei erano stupiti e dicevano: «Come mai costui sa di lettere senza essere stato a scuola?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la sua volontà, conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso. Colui che parla da se stesso cerca la propria gloria. Chi invece cerca la gloria di colui che l'ha mandato, questi è veritiero e in lui non c'è impostura. Mosè non vi ha dato la legge? Ma nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi?» Rispose la folla: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Rispose loro Gesù: «Ho fatto una sola opera e tutti rimanete stupiti per questo. Poiché Mosè ha dato la circoncisione, non che sia da Mosè ma dai patriarchi, circoncidete una persona anche di sabato. Se una persona riceve la circoncisione di sabato perché non sia violata la legge di Mosè, vi sdegnate contro di me perché ho risanato di sabato una persona intera? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia». Dicevano allora alcuni gerosolimitani: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Ecco che parla pubblicamente e non gli dicono nulla. Non avranno forse riconosciuto veramente i capi che questi è il Cristo? Ma costui sappiamo donde è, mentre il Cristo, quando viene, nessuno sa di dov'è». Gesù, che insegnava nel Tempio, proclamò: «Voi mi conoscete e sapete donde sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma è veritiero colui che mi ha mandato, che voi non conoscete. Io lo conosco perché sono da lui, ed è lui che mi ha mandato». Cercavano allora di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla però credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, farà più segni di quello che ha fatto costui?» I farisei sentirono che circolavano fra il popolo queste voci su di lui, e i sacerdoti capi e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Disse allora Gesù: «Ancora un po' di tempo sono con voi, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire». Dissero dunque i giudei fra loro: «Dove sta per andarsene costui che noi non potremo trovarlo? Sta forse per andarsene nella diaspora dei greci e distruire i greci? Cosa ha voluto dire con questo discorso: mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire?» L'ultimo giorno, quello solenne della festa, Gesù stava in piedi e proclamò a gran voce: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Colui che crede in me, come disse la Scrittura, dal suo ventre sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo lo disse riferendosi allo spirito che stavano per ricevere coloro che credevano in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Tra la folla, coloro che avevano udito queste parole dicevano: «Questi è veramente il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Ma altri osservavano: «Forse che il Cristo viene dalla Galilea? Non dice la Scrittura che il Cristo viene dalla stirpe di Davide e dal villaggio di Betlemme, dove viveva Davide?» Si creò allora una divisione fra la gente a causa di lui. Alcuni avrebbero voluto arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie ritornarono dai sacerdoti capi e dai farisei, e quelli dissero loro: «Perché non l'avete condotto?» Risposero le guardie: «Nessun uomo ha mai parlato così». Allora ribatterono loro i farisei: «Anche voi vi siete lasciati ingannare. C'è uno solo dei capi o dei farisei che abbia creduto a lui? Ma questa gentaglia, che non conosce la legge, è maledetta.

ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. C'è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero i giudei: adesso siamo sicuri che tu hai un demonio. Abramo è morto, anche i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà la morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. È il Padre mio che mi glorifica, quello di cui voi dite è il nostro Dio. Eppure non l'avete conosciuto, mentre io lo conosco. Se io dicessi non lo conosco, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò al vedere il mio giorno, e lo vide e si rallegrò. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Disse loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Presero allora delle pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose ed uscì dal tempio. Ora, mentre passava, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli gli domandarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è nato cieco perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo operare le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva e spalmò il fango sugli occhi di lui. Poi gli disse: «Va e lavati alla piscina di Siloe, che significa inviato». Egli andò, si lavò e ritornò che vedeva. Ora, i vicini e quelli che l'avevano visto prima da mendicante dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a mendicare?» Altri dicevano: «Ma no, è un altro che gli somiglia». Egli però diceva: «Sono proprio io». Gli dicevano dunque: «Come mai ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Un uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Silo e lavati. Andato e lavatomi, ho cominciato a vedere». Gli dissero: «Dov'è lui?» Dice: «Non lo so». Conducono dai farisei quello che prima era cieco. Era sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e gli aprì gli occhi. A loro volta anche i farisei lo interrogavano come aveva riacquistato la vista. Disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e vedo». Dicevano allora alcuni dei farisei: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Altri però dicevano: «Come può uno che è peccatore compiere tali segni?» E c'era divisione fra di loro. Dicono perciò di nuovo al cieco: «Tu, che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? È un profeta», rispose. Non credettero però i giudei che egli fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e li interrogarono. «Costui è proprio vostro figlio, quello che voi dite essere nato cieco? Come mai ora vede?» Risposero i suoi genitori: «Noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Interrogate lui. Alla sua età, egli stesso parlerà di sé». I suoi genitori parlarono così perché temevano i giudei. I giudei infatti si erano già accordati che se qualcuno lo avesse riconosciuto come Cristo, sarebbe stato escluso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Alla sua età, chiedetelo a lui». Chiamarono dunque di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: Se sia un peccatore non lo so. Io so soltanto una cosa. Ero cieco e ora vedo. Gli dissero: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: Ve l'ho già detto e non mi avete dato ascolto. Perché volete sentirlo ancora? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli? Lo coprirono allora di ingiurie e gli dissero: Tu sei discepolo di quello là, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma costui non sappiamo donde sia. L'uomo obiettò loro: Lo strano è proprio questo, che voi non sappiate donde sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è pio e fa la sua volontà, questo lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se quell'uomo non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli risposero: Sei nato immerso nei peccati e pretendi di insegnarci? E lo cacciarono fuori. Gesù sentì che l'avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: Credi tu nel figlio dell'uomo? Rispose: Ma chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: Lo hai già visto, è colui che parla con te. Credo, Signore, disse, e si prosternò davanti a lui. Disse allora Gesù: Per una discriminazione sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e coloro che vedono, diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: Siamo forse ciechi anche noi? Gesù disse loro: Se foste ciechi, non avreste peccato. Ora invece dite: Noi vediamo. Il vostro peccato rimane. In verità vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma s'arrampica da un'altra parte, è un ladro e un bandito. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce e chiama le proprie pecore per nome e le fa uscire. Quando ha spinto fuori tutte le proprie, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno affatto un estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa parabola, ma quelli non compresero di che cosa volesse parlare loro. Gesù allora continuò: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che vennero prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo. Entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore, cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Io do la mia vita per le pecore, e do altre pecore che non sono di questo ovile. Anch'esse io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ci fu nuova divisione fra i giudei a causa di queste parole. Molti di essi dicevano: «Ha un demonio e delira, perché lo ascoltate?» Altri dicevano: «Queste parole non sono di un indemoniato, un demonio può forse aprire gli occhi ai ciechi?» A Gerusalemme ricorreva allora la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Lo circondarono i giudei e gli dicevano:

«Non sei forse anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose, «Non lo sono». Poiché faceva freddo, i servi e le guardie avevano acceso un braciere e stavano là a scaldarsi. Pure Pietro stava con loro e si riscaldava. Il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gli rispose Gesù, «Io ho parlato apertamente al mondo. Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove si radunano tutti i giudei e di nascosto non ho mai detto nulla. Perché mi interroghi? Interroga coloro che mi hanno ascoltato. Che cosa ho detto loro? Ecco, essi sanno ciò che io ho detto». Non appena Gesù ebbe detto ciò, una delle guardie che stava là diede uno schiaffo a Gesù dicendogli, «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù, «Se ho parlato male, dimostra dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Anna allora lo mandò legato dal sommo sacerdote Caifa. Simon Pietro nel frattempo stava là a scaldarsi. Gli dissero, «Non sei forse anche tu dei suoi discepoli?» Egli negò e disse, «Non lo sono». Dice uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva mozzato l'orecchio, «Non ti ho visto io nell'orto con lui?» Pietro allora negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù da Caifa al pretorio. Era di buon mattino. Essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato fuori da loro e disse, «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero, «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Disse loro Pilato, «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli dissero i giudei, «A noi non è permesso di mettere a morte nessuno». Doveva così adempiersi la parola che Gesù aveva pronunciato indicando di quale morte doveva morire. Allora Pilato entrò di nuovo nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse, «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose, «Dici questo da te stesso o altri te l'hanno detto di me?» Rispose Pilato, «Sono io forse un giudeo? La tua nazione e i sacerdoti capi ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù, «Il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ora il mio regno non è di qui». Gli disse allora Pilato, «Dunque, sei tu re?» Rispose Gesù, «Tu dici che io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato, «Che cos'è la verità?» Detto questo, uscì di nuovo dai giudei e disse loro, «Io non trovo in lui alcun capo di accusa, ma voi avete l'usanza che io vi liberi qualcuno a Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Si misero allora a gridare, «Non lui, ma Barabba». Barabba era un bandito. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e lo rivestirono di un manto di porpora. E si avvicinavano a lui e dicevano, «Salve, o re dei giudei!» e lo prendevano a schiaffi. Intanto Pilato uscì di nuovo fuori e disse loro, «Ecco che ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessun capo di accusa». Uscì dunque Gesù fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora, e disse loro, «Ecco l'uomo». Quando però lo videro i sacerdoti capi e le guardie, si misero a gridare, «Crocifiggi, crocifiggi!» Dice loro Pilato, «Prendetelo voi e crocifiggetelo, poiché io non trovo in lui alcun capo di accusa». Gli risposero i giudei, «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando sentì questo discorso, Pilato fu preso ancor più dalla paura. Rientrò nel pretorio e dice a Gesù, «Di dove sei tu?»